Finché in piazza c'è un operaio, finché la fame uccide i bambini, finché un vecchio è solo e dannato, finché in galera c'è la Baraldini, finché nel Chiapas del sud messicano contro il governo e l'imperialista, contro il nafta nordamericano c'è la rivolta dello zapatista. Chi è compagno sa cosa fare per dire basta al nostro presente, per costruire la rivoluzione. Hasta la victoria siempre. Chi non crede nella retorica delle bandiere, perché non sa se quanto son rosse, perché non sa se quanto son vere. Io dico, se vuoi darci una mano, c'è sempre un curdo e uno zapatista, c'è un tupamaro a Lima e a Milano, finché nel mondo c'è un comunista. Ciao Ivan.